20.000 segnalazioni, 30 milioni di maggiori imposte recuperate che arrivano a 60 comprendendo le sanzioni. La collaborazione fra comuni e Agenzia delle Entrate sta dando i suoi primi frutti e noi siamo i primi a raccontarvelo. Il meccanismo è virtuoso perché questi soldi, dopo la manovra di Ferragosto, rientreranno totalmente nelle casse degli enti locali spioni. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Consiste nella possibilità da parte del comune, dei funzionari dei comuni o anche della polizia municipale di effettuare degli approfondimenti delle attività di controllo che magari partono per effettuare controlli sui propri tributi, tributi di propria competenza, pensiamo all'ICI, pensiamo alla TARSU, si accorgono che emerge anche un possibile risvolto di evasione sui tributi di competenza nazionale, i tributi statali che possono essere imposte dirette, l'IVA, l'IRAP e così via. Questo fa emergere una segnalazione che il comune può fare all'Agenzia delle Entrate. Da qui scatta l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e poi, nel caso, arrivano le sanzioni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.